Okay, ho detto che praticamente c'è solo una parte della Russia che sono seguaci sui, perché un'altra parte non è d'accordo. Non è d'accordo nessuno lì, è che temono, lì come fai qualcosa ti fanno fuori. Lì non è d'accordo nessuno perché gli ucraini sono come loro, sono russi, praticamente sono i fratelli, stanno ammazzandomi. Esatto, è proprio così. La maggior parte degli ucraini ha parenti in Russia e viceversa, sono nazioni vicine, quindi nei secoli si sono quasi fraternati, capito, tra di loro e adesso c'è lui che sta rovinando tutto, perché sono stati sempre amici, capito? E l'Ucraina prima faceva parte dell'Unione Sovietica, era tutto un blocco, poi avevano chiesto l'indipendenza e adesso lui se la vuole riprendere tutta l'Ucraina. Purtroppo è così, solo che gli ucraini discendono dai cosacchi ed è un popolo guerriero e se è armato bene gli tira parecchi calci nel culo a Putin. Ce l'hanno dimostrato appena l'Europa, insomma, e gli altri paesi gli hanno dato un po' di armamenti per aiutarli. Ho visto che li hanno bloccati i russi, gli hanno fatto fuori un sacco di aerei, carri armati, eccetera. Non sono tanto pacifisti neanche questi ucraini, no? Però si stanno difendendo, hanno tutte le ragioni di questo mondo. E lo credo, è lui che li ha attaccati, peggio per lui, chi su di lei si esimiglia. Iaia, speriamo bene, dai. Dopo ci sentiamo un po' di notizie a vedere cosa c'è di nuovo. Chi viene il magone se ne scritto le notizie? Sempre le solite cose dicono. Vabbè, tengono con la striscia fino all'ultimo. Tanto le notizie sono quella, che è quella principale, e poi del voto di domenica 25, meno male che è solo un giorno. Talia, ci vai a votare? Ma vai, cosa votare? Io non mi sento rappresentato da questa gente e non ci vado. Sinceramente non so neanche chi votare, però tutti dicono che bisogna andare a votare perché è un dovere, se non si va eccetera, alla fine ti devi tappare il naso e votare il meno peggio. E a chi voti il meno peggio? Chi voti? Il centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno dato già dimostrazione di quello che non hanno fatto. Il PD con gli altri, per carità. Il Movimento 5 Stelle si è diviso, Di Maio ha preso un'altra strada, adesso c'è Conte dall'altra. Conte male male non aveva fatto, anche lui è durato poco. O dai un'altra chance a Conte, proprio perché perlomeno non c'è stato tanto al governo e quindi un'altra possibilità io gliela potrei anche dare, capito? Però per gli altri non ce n'è, la sinistra è tutta frantumata, debole, non sa con chi allearsi, c'è Calenda e Renzi da una parte che quelli vogliono eliminati, per carità, non sai neanche da che parte andare. E non è quello, è proprio per quello. Perché non ti senti rappresentato da questa gente, che poi se li eleggono loro tutti i parlamentari, tu voti la coalizione e poi loro mettono a chi gli pare piace. Esatto. In Sardegna, nel collegio nostro, dovrebbero esserci candidati locali, però quelli salgono in base alla percentuale di voti che prendono, capito? La Sardegna non ha molta popolazione come la Sicilia, per cui dovrebbero avere insomma un sacco di voti quelli che sono, diciamo, capolista per andare al Parlamento, insomma, e andare a governare. Ma io vedo tutto frammentato, capito? E dubito che riescano a avere una maggioranza che possa governare 5 anni. E il problema che c'è da 30 anni ormai in Italia e non solo in Italia, anche da altre parti. Ma se non sono riusciti a eleggere il capo dello Stato, vergogna! Per forza, perché ci sono troppi partiti, troppe alleanze, capito? E non tutti vogliono comandare. Ma Mattarella no, si vedeva che non ne aveva voglia, e però è stato costretto a rimanere, ma non credo che ci duri altri 7 anni Mattarella come capo di Stato, e anche perché è grande. Poveraccio, quello lì è grande di età, e poi adesso anche se voti, con tutta la tensione che ci sarà, io penso che non arrivino a avere i numeri, e quindi tu si ridorra un ribaltone, e cioè un governo che non è legittimato perché non l'ha votato nessuno. Così è un terzo governo non legittimo, capito, perché Conte lo stesso non era stato eletto, Draghi non era stato eletto, se no non abbiamo neanche la maggioranza questa volta, si deve per forza fare un governo tecnico, poi chissà con chi, e alla fine anche quello sarà un governo, capito, non votato dai cittadini. Ti sembra, se non sono riusciti a eleggere il Presidente della Repubblica, mica ce ne vuole. Non sono riusciti a eleggere il Presidente della Repubblica, che leggi vuoi che facciano questa gente? Tutta roba sbagliata, hanno impedito di trivellare, di farci il gas noi, tutto, hanno rovinato l'Italia questa gente. Sì, esatto, esatto. In Italia avevano fatto il referendum per chiudere tutti i pozzi, le trivellazioni e tutto quanto. E nell'Adriatico c'è un sacco di gas, dall'altra parte dell'Adriatico dove c'è la Croazia hanno un sacco di pozzi di estrazione e praticamente sono autosufficienti loro col gas che estraggono dall'Adriatico. Dalla parte nostra c'è lo stesso gas e noi non abbiamo i pozzi, ma sono tutti nativi, perché era passato il referendum che bloccava tutte le trivellazioni e la chiusura di tutti i pozzi. E adesso cosa fanno? O fanno una legge veloce che riapre tutto, oppure devono fare un altro referendum. È un macello, hanno rovinato l'Italia, siamo schiavi della Russia. Adesso io penso che faccia un inverno ma molto freddo, siccome ha fatto molto caldo in estate. Vedrai in inverno cosa succede. Presto! Speriamo che faccia un inverno mite, diciamo, con piogge ma senza fare molto freddo, perché se fa freddo sarà dura per tutti. Scusate, ma mi sono addormentato. Brecco! Avanti, Brecco! Era ora che mi va già ad entrare. Buonasera a tutti. Nattari, ci possiamo trovare domani mattina? Se no ti disturbo. E pagosa, Salvatò, per quella storia. Sì, per quella storia, se ci possiamo trovare. E pagosa no. No, dimmi dove. Non lo sai dove abito io. No, so che abito su al monte, ma non so che è a lungo. In Corso Trinità io abito. Natalino si chiamava. Andiamo, andiamo. Sì, ieri no. Andiamo verso casa. Comunque, ciao Gianni, ciao anche agli altri. Bene, va. Dai. Carlo, ci sono io e c'è Natalino. Io mi sono assopito un po' perché avevo dolori furti e l'ora stesso mi ha fatto addormentare. Comunque io ce l'ho il metodo per far passare i dolori. E ce l'ho anche io il metodo, operarsi. Ma sono riso. Andiamo. Per un attarino. Dall'asino della crucca deve andare. No, lascia a te che tu sei geloso. Ah, non sono geloso io, vai, già ti lascio andare. Buonasera attore, Carlo da Questa, facendo quattro chiacchiere con gli amici della radio, però visto la radio fa anche addormentare le persone, fa calmare i dolori ogni tanto. Sì, è vero, ma mi sono soffitto così, forse sa che si è arretrata, fa che non dormo la notte, un po' tutto là. Non ti preoccupare Gianni. Cappagappa, poi mi sono svegliato e ho sentito che parlare, tu caso. Mi parlando di domenica, che andremo a votare, non sappiamo neanche chi votare, questi politici che hanno fatto schifo in questo ventennio e non sono riusciti a avere una maggioranza in grado di durare 5 anni, stiamo andando avanti. avanti a forza di governi tecnici che non sono stati votati dai cittadini, capito? Poi dicevano tanto della DC, capito, che c'è stato 30 anni, per 30 anni ha governato come si deve, secondo me, lui, secondo altri no magari, ma secondo me ha governato bene. Tutti gli altri, bisogna inventare un partito nuovo, Carlo, per... ci vuole gente nuova, gente che abbia idee e che non sia laurea. Il problema è che in passato i partiti erano molto meno, c'era la DC, c'erano il Partito Comunista, c'erano i liberali, i socialisti e poi c'era il Movimento Sociale Destra Nazionale, poi a livello locale ci potevano essere la Lega, i sardisti, capito, ma poca roba. Adesso invece sono forse centinaia i partiti, non se ne capisce più niente e quindi è tutto frammentato, capito, e non riescono a fare la maggioranza anche per quello. Sì, sì, è tutto diviso, quindi è quello. E poi i governatori proprio che non servono a nulla, non sanno prendere una decisione, non sono un... è un casino, è un casino, stanno solo mangiando sul e basta. Oh, iaia, va bene, riprendete che mi stanno chiamando e casomai rientro dopo. Ciao Tore, se non ci sentiamo, ciao Natalino e ciao Gianni, dai, poi magari se ce la faccio già rientro, sono in ascolto comunque. Sì, dai, ciao Carlo, dai, buon ascolto allora, avanti Tore. Sì, infatti, ti saluto anch'io, ci risentiamo se in caso non rientri. Va bene, vai Natalino. Io abito per domani al limite, il vicolo che c'è, tu ti fermi al tabacchino che c'è lì sulla destra, in corso Trinità, capito? Il numero di telefono mio ce l'hai? No, non ce l'ho, c'ho il numero di coso, della sede di là, di sono un grubizzetto, normalmente come ti si chiama? Non hai, è carta che te lo dico. Aspetta un attimino. Avanti già. Sì, io. Dovevo passarci anche io, ma un casino, Natali, che sono subito tra di voi. Oh, yeah. Allora, ti ho giocato a guidare la macchina a bandare la dottore. Infatti, no. Qua, quando abbiamo tempo che sei a posto. Dimmi, Natali. 347. 347. Poi? 91. 08. 094. Ok Natali, ti chiamo domani mattina. Anda bene Meda, quando sei al tabacchino mi chiami e io scendo. Mi dici verso che ora vieni intanto? Ma se vuoi vengo verso le 10, bene ti va. Anda bene, là, io mi tengo pronto per le 10 e così... facciamo quello che dobbiamo fare. Sì, Natali, anda bene. Ma sai, ha cambiato il tempo, c'è freddo. Lo so, lo so. Me l'ha detto mia moglie, sta facendo freddo. Fuori. Io non sono uscito per nulla. E io a chi l'obbliga a uscire, se no non è uscito. Guarda, non avevo nessuna moglie. Lo so. Purtroppo, quando si veniva si gozi. Via. Se qualcuno mandare, ma chi ci mando? Allora, non guida, cazzo, non si destreggia, no, che ci sta, perché non è di qua. Figurati. Purtroppo è così, ma cominciami la dittia. Sì, quando vai a gallo, pigio. Ma con la dittia di dubbi e basta. E adesso comincia a scendere un po' di freschetto la sera, già si sente. Ma che il maduro che vento, buru. Così adesso è solo la mani, non ti verrà il ciumento in cielo e la breco. Ehi, ehi, ma e che se lo fa? Noi siamo in mano alla natura, che subirissi di base, anzi non che non ne fate di danno, ma nel continente ho visto cosa sta succedendo. Ma lì è anche colpa loro, perché dovevano pulire il fiume, pulire nelle cose. Sono sempre in coso dalla montagna lì che ne scende tutto. E magari hanno costruito anche dove non dovevano costruire, gli ha fatto tipo diga. E poi gli su che hanno avuto l'alluvione. E l'altalino, la forza della natura, l'uomo non compete, con la forza della natura, poi fa i suoi tibiazzi e per la natura si gira e chi c'è la ragione. Se si gira la natura non puoi fare nulla, Poi io quella volta che c'è stata la tromba d'aria. Ma le cose, Gianni, non sei uscito. E adesso guarda, forse ho schiacciato male. Adesso sì, ma poco fa c'è la portante ma non c'è la voce. Perché se lo schiaccio male, questo qua è particolare, c'ha il tasto quadrato, e ti senti al 30 all'udito, lo sai quanto vuoi essere fastidio. Non è lungo, è quadrato, capito? Quindi tu come primi, ti senti all'udito, quindi premi il piano per non farti male. Ai ai ai, chi su di che durori. E adesso mi lo giro così almeno il microfono, quando è girato non ha scampo. Se sempre viaggi, metta a vero che me la compareggio. E lo sai cosa? È una statica qui, non è un microfono di cavo, è una statica questo qua. Dopo quello. Ma è Natali. E dove vado? Non lo so, vabbè, date. Se vado avanti mi tiro la faccia al monitor del computer. Così è. Ui, certo che andiamo per andiamo. E lui ride, a te l'immagini già questo attore. Fa come il gambero, cammina all'indietro. Dai. C'è gira quale comiche. E non sei contento, allora manco ridi senza pagare un biglietto. Infatti, è così. Davvero? Dai. Siamo così. Niente, possiamo dire le cazzate che vogliamo. Mi siete torna sovramodulati. Toro, sarà bravo. E più di così non vennemmi. Aiuto, prendi la parola. Ciao a tutti ragazzi, buonasera. Buonasera anche a lui, avanti. Ciao Tore. Ciao Gianni, ciao Natalino. Sono passato qua a spegnere il computer e ho acceso e vi ho sentito. Sono entrato solo per salutarvi. Avanti Tore, fai girare. Ok, come lo facciamo girare? Al rovescio, all'indritto, come vuoi, comunque buonasera. No, se no poi Natalino deve prima andare avanti e poi girare, non va bene. Comunque dai, vi saluto tutti, avanti lo stai Natalino. Ciao Fra, ciao, buonasera, ben sentito, riprendi già. Ciao Franco, ben sentito, dai, proprio l'altra sera stavamo dicendo, non avevo più sentito Franco. Che fine ha fatto? Niente, dai, è impegnato in altre cose. Niente, per la radio ero da parecchio che lo accendevo, acceso la mia, adesso solo mentre stavo spegnendo il computer. Ho detto, non vi ho sentito, adesso entro a salutare e poi me ne vado. Ok, infatti non l'ho tutto perché mi stanno chiamando. Ci sentiamo. Ciao Tore, ciao Natalino, e buon proseguo a te Gianni e a tutti. Ce ne ascoltiamo, riprendi già. Sì, ciao Fra. Con la carica quando la fai, poi siamo qua. Quando giù non è problema. Avanti Natalino. Ciao Fra, ciao, ben sentito, buona cena, buon tutto. Avanti Tore. Ciao Fra, stammi bene, alle prossime. Ciao. Avanti Natalino. Io che io riprendo per salutarvi, dai, vi ringrazio per le quattro chiacchiere e me ne passo in QRT. Ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao Natali, ci sentiamo, dai, ciao anche Tore, dai, vado via anche io. Mi metto qualche cosa di pesante perché c'è un po' di freddo. Vabbè, dai, era petto nudo e adesso devo mettere il pigiamone. Guardate, ti rubo il va. Vabbè, dai, ci risentiamo. Ciao Natalino, ci sentiamo domani. E ciao Gianni, stammi bene. Ciao, tanto devo andare a mangiare adesso. Andate, ok. Ciao. Ciao.